2. Ascolta e ripeti. Guarda! Fai attenzione! Fai attenzione a cosa? Alle altre macchine! Guida con prudenza! Lascia stare! Gira qui a destra. Per piacere, parcheggia qui. Abbi pazienza. Fai presto, per favore.